Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Melis. Dai politici agli imprenditori, dai ricercatori agli operatori economici e finanziari, sono moltissimi i soggetti che per un verso o per l'altro devono preoccuparsi di pianificare, di programmare il futuro e perciò in qualche misura anche di prevederlo. Ma in un'epoca di cambiamenti esponenziali non possiamo più affidarci per cercare di immaginare gli sviluppi futuri alle stesse metodologie che sono valide in tempi di cambiamenti lineari, progressivi. Federico Pedrocchi ne ha parlato con il rettore dell'Università di Udine, Alberto De Toni, incontrato in occasione del Future Forum. Sentiamo com'è andata. Allora, rettore, mi pare che al centro della vostra riflessione ci sia il fatto che, insomma, mettiamoci una mano sul cuore, ma il futuro non è qualcosa che può essere previsto. Insomma, quando parliamo di questo abbiamo un piccolo delirio di onnipotenza. Certo, il futuro non può essere previsto. Perché? Perché il cambiamento a cui siamo sottoposti è un cambiamento sempre più interconnesso, nel senso che viviamo in sistemi sempre più interdipendenti. Inoltre il cambiamento è sempre più accelerato perché viviamo in tempi esponenziali, e inoltre il cambiamento è sempre più discontinuo perché viviamo in ambienti con risposte sempre più amplificate. Certo. In questo contesto di cambiamenti appunto interconnessi, accelerati e discontinui, pretendere di prevedere il futuro è semplicemente un'ingenuità, e quindi dobbiamo pensare a lavorare in maniera diversa. Ecco, ma immagino che voi poi non ci stiate suggerendo, voi analisti di questa scenaristica, non ci state suggerendo di vivere la giornata. Ci sarà un modo di prevedere le cose più complesso, ma che in qualche modo si può mettere in campo? Certo, negli studi che noi portiamo avanti anche a livello universitario stiamo passando dal tema della previsione, che prevede l'estrapolazione del presente per immaginare un futuro, stiamo andando al tema cosiddetto dell'anticipazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente lavorare per scenari e cercare, più che lo storico, cercare i segnali deboli e i trend. Cioè dobbiamo studiare i trend di fenomeni contigui e i segnali deboli per poter immaginare più futuri possibili, che sono gli scenari. Certo, perché effettivamente questi segnali deboli, se si riuscisse a coglierli, si avrebbe un sistema di anticipazione. Ecco, io ho seguito però appunto un po' i vostri contenuti, e un concetto forte che veniva fuori è questo che riguarda la presenza di tanti presente, potremmo dirlo così, con questo gioco di parole. Sì, una differenza fondamentale tra la previsione e l'anticipazione è questa, che nella previsione noi partiamo dal presente attuale per cercare di definire un futuro, mentre la verità è questa, che all'opera ogni giorno sono compresenti, in un gioco di parole, più presenti, che non c'è un solo presente, ma ce ne sono molti, coesistenti e conflittuali. E siccome ciascun presente è gravido di futuro, il gioco importante è capire quali di questi presenti ha le carte più, diciamo, più giuste per potersi affermare in futuro. E quindi dobbiamo leggere i vari presenti, e tutti quanti possono essere portatori di nuovi scenari. E quindi non tentare di fare una sintesi per trovare un presente comune, bisogna abituarsi all'idea di gestirne magari 3 o 4 contemporaneamente. Sì, presenti diversi e percorsi multipli, e in più abbiamo quelle che si chiamano in gergo le wild card, e cioè le sorprese strategiche. Ecco. Ad esempio, oggi abbiamo Ebola, in passato abbiamo avuto la SARS, e sono eventi completamente discontinui, e questo ci obbliga ad avere capacità di ridondanza. Cioè noi nelle situazioni di crisi portate alle sorprese strategiche dobbiamo avere delle ridondanze. E nelle aziende le fisiche sono associate alle inefficienze, ma allora dobbiamo andare sulle ridondanze intangibili, che vuol dire ridondanze di natura cognitiva, di natura relazionale, di natura informativa, di natura funzionale. Ecco, Alberto De Toni, però in conclusione rapidamente, lei ha disegnato una macchina da gestire complessa, però ci dà il messaggio, insomma, che si può fare, si riesce a gestire questa cosa. Guardi, io dico sempre, semplicità e complessità, viaggio di andata e ritorno, cioè dobbiamo avere il coraggio di affrontare la complessità per poi tornare a soluzioni più semplici. Grazie, rettore, buon lavoro. Buona serata a tutti, arrivederci. Torniamo in studio per salutarci e darci appuntamento a domani. Buona serata.